Sei soltanto un'utopia, ma vivi nei suoi occhi e vesti i suoi colori, il rosso della rivolta, il verde dell'amnistia. Per la via, quanta gente ancora aspetta il suo messia, ma il messia è un fratello che sta tra tutti noi. Siede su questi prati ed abbraccia i tuoi perché. Nostalgia, nostalgia, nostalgia, è mai possibile che tu sia così mia? Oh, sfuggi negli sguardi e voli sulle case, e ridi e poi sorridi senza vergognarti mai. Sui canali di San Pietroburgo, vecchi slavi ballano nuove canzoni. Nelle chiese di San Pietroburgo, nuovi amori si giurano vecchie poesie. Per cortesia, cortesia, cortesia, fa che tu sia soltanto utopia. E non dirmi che esisti, che ridi, che respiri, e non dirmi che mi ami, non so cosa ti direi.